Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. E rieccomi, riecco Giulio Caperdoni dopo una settimana di sospensione in cui avete ascoltato la replica di Eclettica fra le 19 e le 20 tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì. E sarà così anche in altri momenti in questa estate. Eclettica non sparirà mai dalle frequenze di Rock FM. Di tanto in tanto, una settimana al mese più o meno, sentirete la replica della settimana precedente. Domenica mattina fa entrare l'alba e solo un'inquietudine al mio fianco. Albeggia presto domenica mattina, sono solo gli anni sprecati che incalzano. Attento! Il mondo è alle tue spalle, intorno ci sarà sempre qualcuno che ti chiama. Non è niente. Domenica mattina e sto cadendo, ho una sensazione che non voglio sapere. Albeggia presto domenica mattina, sono tutte quelle strade che hai attraversato non molto tempo fa. Attento! Il mondo è alle tue spalle. Intorno ci sarà sempre qualcuno che ti chiama. Non è niente. Attento! Il mondo è alle tue spalle. Intorno ci sarà sempre qualcuno che ti chiama. Non è niente. Domenica mattina. Questo era Sunday Morning di Lou Reed. For me. What are you kidding me? Bullshit. Where are you going? Gotta go meet my wife and watch Sisterhood of the Traveling Yaya Pants. I don't up. How late do you get to stay up? I used to have midnight. Do you get midnight? Because I was late once. I'm a grown man, Neil. I don't have a curfew. Not yet you don't. In questa sua 40ª settimana della stagione su Rock FM, che si è aperta con le chitarre rispettivamente dei Blitz and Trapper con Wild Mountain Nation e poi degli Air Traffic con Charlotte, che prosegue con un nuovo artista inglese di nome Scott Matthews. Attenzione alla S finale, poi capirete. È uscito con un disco originariamente per una piccola etichetta indipendente dal nome, guardate un po', di Sanremo, nel 2004, ed è un disco questo che è cresciuto a poco fino a diventare un disco molto molto venduto in Inghilterra negli ultimi mesi. Passing Stranger è il titolo di questo disco. Disco che sta per essere pubblicato, succederà nel mese di settembre anche negli Stati Uniti, soprattutto grazie ad una traccia Illusive, quella che ci stiamo per ascoltare. E a proposito della S finale? Beh, a proposito della S finale, perché nelle playlist di Eclettica di questa stagione trovate un altro nome molto simile, Scott Matthew, però senza la S finale nel cognome, quello Scott Matthew che aveva realizzato la colonna sonora del film Short Bus, che tanto ci eravamo ascoltati, soprattutto con la versione sgangherata di In the End. Ma ora è la volta della S finale, Scott Matthews su Eclettica, questa è Illusive. She's a gambler, spinning wheels, the poison victim, a lock of steel, the coldest hearts you've ever felt, the coldest hands you've ever held, ticking down on her way, a million miles, still no headway, as a love to let blow, in a mind I'm proud to roll. She's elusive and I'm awake, defiantly real, there's nothing fake. A mystery now to me and you. Open my eyes and now next to you. She said my destiny lies in the hands that set me free. A reckless night, she hears me breathe, cursing the sky to this company. It lost the wisdom deep inside. Your bitterness shows its eye. If it's true, I am doomed. What more is there to hold on to? A strand of hair is all I own. A gift to me, this sorry soul. She's elusive and I'm awake. Divinely real, it's nothing fake. A mystery now to me and you. Open my eyes and now next to you. She said my destiny lies in the hands that set me free. Something says this ain't right. There's more to her than meets the eye. Comes and goes at any time. Back in my head till another time. She's elusive, I'm awake. Divinely real, there's nothing fake. A mystery now to me and you. Open my eyes and I'm next to you. She said my destiny lies in the hands that set me free. Sto aspettando il mio uomo, 26 dollari in mano all'altezza di Lexington 125. Mi sento malato e sporco, più morto che vivo. Aspetto il mio uomo. Ehi, ragazzo bianco, che ci fai in questo quartiere? Ehi, ragazzo bianco, stai facendo il filo alle nostre donne? Ah, scusi, signore, non mi passava neanche per la testa. Sto solo cercando un mio carissimo amico. Sto aspettando il mio uomo. Eccolo che arriva, tutto vestito di nero, scarpe da portoricano e un gran cappello di paglia. Non è mai in orario, è sempre in ritardo. La prima cosa che impari è che devi sempre aspettare. Sto aspettando il mio uomo. Fino al portone di un palazzo in mattoni e su, per tre rampe di scale, tutti ti puntano, ma a nessuno importa. Lui ha la roba. Te ne dà un po' di quella buona, poi te ne devi andare perché non hai tempo da perdere. Sto aspettando il mio uomo. Tesoro, non gridare. Cara, non piangere, non gridare. Io sto bene. Lo sai che prima o poi riuscirò a farcela. Mi sento bene, mi sento davvero bene. Fino a domani. Ma quello è un altro momento. Sto aspettando il mio uomo. Portala a casa. Questa era I'm Waiting for the Man di Lou Reed. El pelo sin el humo. Listen, we're all adults here. You're newlyweds. Making love's a big part of that. You're supposed to explore each other. I get it. Come on. If this situation's gonna work, we gotta be honest with each other. Now go on, enjoy yourselves. I'm not gonna listen. Pump away. Go on, get out of here. Good night. Okay. Canadesi Frog Eyes, appena ascoltati con Idol Songs, e ancora prima invece era stata la volta degli spagnoli Mus, un brano che mi ha colpito subito la prima volta che l'ho ascoltato. Mi sono azzardato la scorsa settimana anche in paragoni che definirei pericolosi, e sono curioso di sentire, a proposito dei Mus, ma come sono curioso di qualunque altro gruppo che io vado a trasmettere, di sentire il vostro parere. Avete la possibilità di farlo in privato scrivendo a giulio@radiorockfm.com o in pubblico scrivendolo su myspace.com/eclettica. Questi due brani che ho appena citato sono stati intervallati dallo spritz cinematografico della settimana, un film che, contrariamente rispetto al solito, è un film recentissimo, è stato nelle sale fino a poche settimane fa, magari da qualche parte è ancora nelle sale. Chiudiamo questa prima parte di Eclettica del volume numero 1 della settimana con uno dei miei gruppi inglesi preferiti del momento, e sicuramente sono le playlist a parlare che ne danno dimostrazione. Sono un trio, fanno finta di essere giapponesi, ma come già ho detto vengono dalle isole britanniche. Si chiamano Fujiya e Miyagi. Second time broke out a bone, tripped over my shoelaces. Second time broke out a bone. Superstar wanna be, says it comes naturally, cemented in your own I know you like to see it's in a show.